raccontarsi per raccontare. E non c'è due senza tre, DJ Carlone, ci siamo nuovamente qua in radio in compagnia di... Mamma mia, non ne potevo... Michele. È la prima volta e... Valentina! Ma Valentina... Mamma, che voce! Ricordiamo che Valentina è schedata in questo locale, ecco. È diffidata. Sì, sì. Senti, puoi ripetere il nome, eh? Valentina. No, come prima. Facci lo spelling. Mamma mia. Ma ogni tanto la fa sempre questa vocina. Ma no, è arrabbiata. Sì, perché Michele l'ha fatta arrabbiare prima. Ah sì? Allora, lei, Valentina così arrabbiata. Ecco, è così arrabbiata. Ci tengo a precisare che è inizio serata, non è sì, fine serata. A fine perché... serata, proprio, mi fai la voce di a fine serata? Come sarà più o meno? Sì, com'è? Come la solita. Sì, com'è? No, non si sa. È una sorpresa. No, allora. Che non se la ricorda è stanca, perché non se la ricorda. No, allora, posso dire come la chiamo io a fine serata? La pazza del convento. Perché motivo? È perché dà segni di squilibrio a una certa ora della sera. Però stasera è peggio, è sì. Ha già iniziato. Alle 8:20. Che fine mese deve fatturare, giustissimo. Ah, giusto. Ecco. Senti, perché voi ballate insieme, giusto? Sì, esatto. Ma solo nel ballo o anche nella vita? Andate anche in camera, insomma. In camera, insomma. Decisamente. Quando possiamo, sì, sempre. Allora, voci di corridoio mi dicono che vi dovete sposare. Voci. Oddio. Il vicolo. È obbligatorio? No. È un campo obbligatorio. Chi l'ha deciso? Passiamo saltiamo domande. Stanno chiamando. L'aiuto a casa del pubblico. Sta facendo la telefonata. Proprio. Senti, Valentina, siete insieme da quanti anni? Da 8 mesi. Come 8? E lui mi ha detto sono anni da quando ha fatto un morbillo insieme. Ma che cos'è anche questo? La varicella. Sì, sono cose che uniscono. Sì. Valentina... sono malati l'uno dell'altro. Sai, Valentina è pugliese, lui è di Piemonte. No. Sono 110% pugliese, lei per metà. No, di paese che è importante. Bravo, diciamolo tutto. Allora, io sono di Manfredonia, provincia di Foggia. Sì, che si mangia bene. Molto bene. Sì. Molto. Puoi dire un piatto tipico di Manfredonia? Di Manfredonia? Aspetta, non i soli. Macedonia? No. Tipo fanno olio e pomodoro? Cioè. No, quelle cose così la buona no. Sì. Io penso che da Manfredonia fino ad arrivare a sud, proprio dalla Puglia, penso che le orecchiette con la cima di rap sono la cosa migliore che ci stanno. Sì, no. Lasciamo perdere la pasta col pomodoro fresco, che vabbè, anche quello è il top del top. Però le orecchiette sono le orecchiette, ragazzi. Vuoi mettere le orecchiette? Ma insomma. No, assolutamente. Comunque, anche pensa che una volta, quando sono la prima volta che ho comprato mia moglie in Puglia, lei ha visto una distesa tutta rossa. Fa, mo quanti papaveri? Ma che stai a dire? Sono tutti pomodorini quelli. Ma quanti papaveri? Sandrino. Ma lo sai che sono alti? E la Valentina è piccolina? Sì, no, senti, allora, voi giustamente siete esperti nel ballo? Ma da capogiro anche da capogiro. Come dice lui. Il vostro ballo qual è? Baciata, salsa? Baciata, salsa. La signorina qui anche. Sì. Dica qua. Sì. Qua avvicina il microfono. Io ballo da 12 anni. 12 anni? Che cosa? Reggaeton. Baciata, vabbè, allora Sandrino a fine serata. Sì. Lei deve salire lì sopra e deve ballarci un reggaeton. Come si deve? Veramente. Lui ovviamente con lui? Con lui? No. Ma anche senza? No, anche senza. No, esatto. Cioè, ma che, adesso non lo sento. Cioè, adesso. Sei già mangiato tutta sera, adesso esatto, a fine serata facciamolo fare a qualcun altro, no? Per esempio Sandrino. No. L'ho mandato a scuola. No. Chiamami la Enza. Salutiamo anche l'inquilino. L'inquilino qua che ci sta spiando da fuori, la portinaia. È stata Miss Serramento negli anni 90. Comunque. Diamo un ruolo, come si chiama? Gesami, salutiamola. Ciao Gesami, numero uno. Gesami Muccio. Dov'è? Allora, io mi faccio il nodo al fazzoletto. Ok. A mezzanotte, un po' prima, ci fai una bella esibizione. Valentina, ti diamo 1.000 euro. Tanto, Valentina è esibizionista, sì. Guarda, 20 euro lo faccio anch'io. Mi svendo. Io con mille... c'ho Alessandro che la indovina con due. Mi svendo proprio. Io con 1.000 euro smiriglio tutte le pentole. Tutte le pentole che ci sono. Un gruppo di svenduti praticamente. Comunque, io, Sandrino, sarei molto volentieri, ma la console. Il dovere ci chiama. Sì, è l'ora. Volete continuarla? Vi do le cuffie all'Alessandro. Dobbiamo tantissimo, Carlo. Io andandissimo e vivissimo. Sì. Ringrazio Michele, Valentina, che si sposeranno fra due anni più IVA. Scatto la risposta, mi raccomando, non mancate. Ecco, ecco. Sul dovere ci chiama. Andiamo a lavorare, via. Ciao. Arriviamo a dovere, arriviamo. Ciao a tutti, ciao. Ciao da Michele, ciao. Valentina, Alessandro, DJ Carlone, Sandrino. Ciao. Chiuso?